in onda Shabalon, un programma di Piazzalta di e con Enzo e Marcello, alla conduzione tecnica Simone, Uni. Alle riprese video Valeria, Eria. Amici di Shabalon, è il 25 novembre. E non dicembre, come stavo per scrivere altrimenti io. Altrimenti qualcuno avremmo già dovuto prendere i regali. Esatto. Dicembre. Enzo e Marcello, siamo pronti. E Valeria ci sta inquadrando. Un saluto agli amici che ci ascoltano in registrato podcast, in diretta video e in registrata video. E via, via. In acustico. In acustico. Avete già visto gli ospiti, ma in realtà degli ospiti parleremo dopo. Intanto siamo reduci da una bellissima trasferta a Roma, che se ve la siete persa chiaramente potete rigustare sul nostro profilo di Piazzalta. È stata un'esperienza incredibile, abbiamo trovato un pubblico incredibile e degli amici al quale incredibili, mi verrebbe da dire, ma non vuole, sei troppo ripetitivo. No, che... un saluto chiaramente a Roberto, che ci ha veramente accolto con incredibile via. Ma allora, prima di iniziare volevo l'argomento di stasera, Enzo, se riesci a trovare. No, lo diciamo dopo l'argomento di stasera, come tutte le volte. Poi quando il mio analista mi dice che qualcuno mi tarpa, non è che ricordatevi che potete fare una cosa bellissima, che è condividere la pagina Facebook di Piazzalta. Riceverete in cambio tanto amore. Tanto amore, amore a cuori scieni. Andiamo col primo brano, Simo? Sì, dai. Va bene, vai, primo brano, poi dopo lo disannuncio e giù che rida. Scusa, me ne dai. Forse anche un omaggio alla settimana scorsa, che abbiamo fatto a Roma. Non lo so. Ora Marcello è particolarmente eccitato perché sono arrivati degli ospiti. Lui si è sganciato per la prima volta il giubbotto. La felpa. Forse oggi se lo toglie. Ah, ricordo che se arriviamo a 20 contatti contemporanei, ovviamente, Marcello, quanto è vero che non hai capelli? Sì, lo posso fare. Allora c'è Matteo che ha preso parte, poi Massimiliano Acquisti dice: Marcello, tutto il primo piano. Qui è una scusa, io chiedo scusa agli ospiti. Qui obiettivamente faccio la parte un po' della spalla, ma fuori di qui ho dei fan, veramente dei fan, plurale fan. Allora, questo Massimiliano è una persona importante perché la mattina, se uno vuole entrare al lavoro, è lui che apre il portone. Quindi si apre. Io direi di iniziare così. E io direi: non devi fare, non è che devi dire. E per l'emozione, direi: Bene. E va bene. Allora, ora proviamo a iniziare la puntata come se fosse vero. Questa è Sciabalona, il 25 di novembre. Fra un mese è Natale, ma questo è un problema magari vostro. Di che cosa parliamo stasera, Marci? Di una cosa che a me sta veramente, cioè che mi vede chiaramente protagonista, perché si parla di sport, ma non di sport così teorico, così, sport alla grande, pratico, quello giocato, cioè gente che, come dicevamo prima, in mezzo all'aria aperta pensa, magari contenuta anche adeguata, una magliettina leggera, va ora in onda la spiegazione del calcio, corre per un sacco di tempo. Dietro una palla, la precisione è tutto forte, ecco. Ecco, io diciamo lo vivo così questa cosa. Allora, perché hai detto pratico? Perché in realtà ci siamo dimenticati di dire, ma non ce lo siamo stasera dimenticati, stasera potrebbe venire fuori una, ci sarà anche una parte teorica come tutte le settimane, che è quella dedicata al Fantachiana. Dovrebbe arrivare uno dei rappresentanti di questa fantomatica lega che ci spiegherà come va. Intanto ricordiamo che dobbiamo continuare a condividere la pagina di Piazza Alta per darvi tanto amore. Tanto amore, amore, amore. Finalmente parliamo. E quindi gli ospiti di questa sera, per parlare di calcio pratico, abbiate pazienza, e non calcio balilla teorico, come si potrebbe dire. Chi abbiamo sono? Due esponenti che chiaramente tutti riconoscerete. Alla mia destra abbiamo Andrea Mattani. Salve, buonasera. Ciao Andrea, grazie di essere qui. Grazie a voi. E scusaci, no, così in generale. Scusate voi. Invece alla destra di Andrea. Nella destra. Salve. Alla destra estrema. Estrema destra. Abbiamo Claudio Berni. Uscite fuori con le mani alzate. Chiaramente, diciamo, quando hanno solo in tenuta sportiva sono più riconoscibili, ma stasera per noi hanno fatto, avete credo anche interrotto la preparazione stasera per essere qui. No, ma ci volete dire, l'hai detto di che società sono? Ci arrivavo, se non mi interrompo. Scusa, vado via. No. Dicevo, allora Andrea, ci vuoi dare un input di che squadra fate parte, di che tipo di sport parliamo, perché non si è capito da quello che ha descritto la mia conoscenza calcistica finisce qui, insomma, su, si corre tanto tempo e già, come hai notato, ho avuto delle difficoltà. Va benissimo, non c'è problema. Allora, noi ci occupiamo soprattutto, cioè noi giochiamo a calcio 7, siamo una squadra di calcio 7, milita nella federazione OPES di Arezzo e siamo i Colcioneros. Calma, fermiamo, cioè, hai detto già tre cose che lui non ha capito. Allora, intanto calcio, okay. Non ho capito. No, sette e mezza al allora massimo. Sono vari tipi di calcio, bravo, okay? E questo è un, cioè, fondamentale. Calcio a 11 è quello classico che vediamo tutti i sabati, domeniche, mercoledì, martedì. Stai calmo, a 7 è meno impegnativo, per organizzare. Ah, si corre meno. Vedi che c'era qualcosa. E a 5 si corre ancora meno. Campo ancora più corto. Lui ha fatto il calcio a 1, si è messo a sedere e ha detto: oh, sono riuscito anche a farmi fuori il crociato. Quindi intanto tutti si fanno fuori il crociato. Se non ti fai fuori il crociato, non sei un calciatore. Ora, abbiate pazienza, divaghiamo. Sarà difficile parlare di quello che si dovreste parlare, però vabbè, non c'è problema. Ecco, quindi 7 per esempio le misure del calcio, ora senza misure, esagerare, senza esagerare, ecco, scusate, è la via di mezzo tra il calcio a 11 e il calcio a 6, la butta sempre sulle misure sessuale, non ci fate caso, sempre sulle misure. Aspetta che avevo fatto delle domande intelligenti, scusa. No, intanto, allora, il tuo ruolo nella portiere. Squadra portiere e capitano. Mentre Claudio presidente. Io sono il presidente e sono anche il bomber della squadra. Quindi almeno ci provo. Marcello, scusami se ti disturbo, ma si sente se parli? è una novità introdotta da poco. Voleva offrire da bene, sì, ho capito. Ci arriva in fondo. Sì, no, ve lo fai bene. Inquadra un po' i nostri amici che tanto il pubblico stasera, eh? Allora aspetta, il pubblico aspetta, perché quindi applausi. Niente è lasciato, niente è lasciato al caso. E non mi ricordo già più. Ah, dicevamo capitano, portiere e bomber presidente, cioè abbiamo l'essenza della squadra. Eh sì. Ecco, manca... gli altri che cosa fanno? Niente, gli altri niente. Più o meno niente. Non contano niente. Niente. Che conta? Allora, facciamo. Però io so che mi è stata detta una cosa. Sì. Potrei fare una figuraccia. Che il portiere, cioè te, quest'anno ha parlato un sacco di rigori? È o chiaro, in genere? Certo, è chiaro. Chiaro. Ah, è chiaro proprio. Cioè, che c'è sta parte? Servo, è il mio ruolo. Certo. Parlando prima di misure e di dimensioni, volevo capire il campo. Cioè, proprio... proprio tecnicamente. Tecnicamente, è il sintetico, in erba, che dimensioni? È variabile. Può essere, esatto, può essere o in cemento, quindi asfalto, oppure in erba sintetica, e a seconda di... E te ti butti nell'asfalto? Vedrai. Vedrai, se no facevo una questo cosa. Questo spiega anche tante cose, però... mentre il bomber, Claudio, quanti gol hai fatto quest'anno? Per adesso, su 4 partite, ne ho fatti soltanto 2... perché sono tornato da un infortunio. Vabbè, dicono tutti così. Ci proviamo. Guarda, c'ho un amico che ultimamente ha detto non ho fatto pochi gol, sono tornato da Cuba. Era strano. Però cioè, come scusa, una scusa il calciatore è un po' come il calciatore o il pescatore, uguale. E quindi siete alla quarta di campionato, questo, sì. Ok. Sì. E come siete in classifica? Mi sembra a metà. Quella risata del, capitano non è proprio... Non siamo partiti bene, diciamo. Diciamo che su 4 giocate, 3... No, 2 pareggiate, 2. Una vinta, una persa. Ma noi... Avevate la missione. Dunque, perché... Ora, parte, provo a fare una domanda seria, sì. Poi dopo questa si taglia. Però era solo per... Certo. No, per l'amor di Dio, ci mancherebbe. Vorrei alzare il livello. Ma figurati. E offendere, cioè, perdiamo consensi. Perdiamo audience. No, è chiaro. Se traspare minimamente che c'è anche un po' di cultura di... Spengono proprio i telefoni. Facebook si blocca. Infatti me la sono scordata la domanda. Per dire, siamo a posto così. Ecco, sarà meglio, va. Sarà meglio che vada a leggere il messaggio. Lo dico per il pubblico. Quando sentite, vuol dire che è arrivato un messaggio. E quando sentite. Allora, grazie. Massimo Biribicchi dice, Marcello, dillo pure con parole tue. Saluto Massimo. Grazie. Grazie di Simone Faretani dice 2 gol, meglio inglese quello del Chievo, ma questo è un problema di fantasia. E invece Kakash o Kakash, insomma Matteo, dice Mister Bernardini dice no al sintetico, solo campi, non avevo detto la fine. Ce la vediamo direttamente. Solo, tanto lo leggono tutti, solo campi di pelo. E andiamo avanti. Quanti minuti sono passati, Simone? Parecchi. Ma non importa. Mettiamo un po' di musica. Però breve, però. Perché io ho tante domande sul calcio a sette. A sette? Anche. Salve, sani, siate, salve. dicendo leave, love, no, cioè sono italiani, vuol dire proprio leve. Ah, allora vabbè, datemi una leva e solleverò il mondo. Mi sto risentendo perché Augusto. Senta, grazie. Allora, siete voi, Ma no. Ho capito, noi lo sappiamo. Ma ritardati. Questo è Shyamalan. E facciamoci un applauso, ragazzi. Allora, di che cosa avremmo voluto parlare stasera? Io non lo so com'è l'anonimo alcolisti, ma penso che se me la dovessi immaginare sarà così. Sto dando più calci sotto il tavolo allora, io a Claudio che in tutta la stagione calcisti. Infatti è venuto con le stinchiere. Che in tutta la stagione calcisti. Scusa, no, perché io te l'ho detto tra poco. Allora, dicevo, io stiamo parlando, sapere, facciamo un riassunto. I Colchoneros, Andrea e Claudio. I massimi esponenti della squadra, capitano e presidente. Ecco, io volevo sapere, ma una squadra normalmente cerca un'altra squadra con cui fare una partita, siamo no? alle basi, siamo alle basi, cioè, base, oltre, io capisco voi sette, posso capire voi sette, sì, ma non siamo solo sette persone, siamo 22. 22 una squadra di sette? Sì. Fate a botte per giocare, per no. Ecco, ma poi trovate altri sette per fare una partita. No, a parte è un campionato a livello provinciale. Sì, sì. Provincia d'Arezzo, ovviamente. Sì, quante squadre siete? 16. 16. Due gruppi da 8 squadre. I vincenti fanno spareggio, no? Sì, per andare a Riccione, mi sembra. Esattamente. A fare campionati, tipo le finali regionali. È qui che ti volevo, A Riccione. Cioè, Riccione è fondamentale. Cioè, lo sport va bene. Noi però però Riccione è l'obiettivo. Quando nasce la Colchone, aspetta, lo dico, Colchoneros FC, Colchoneros. Sì, qui può parlare il presidente. Un anno fa. Fondatore, quindi. Sì, un anno fa. E insieme al nostro vicepresidente che ora purtroppo non c'è, e lo saluto. Quindi come si chiama squadra, non so, Jacopo Caccialupi. Sì. È una squadra relativamente giovane. Sì, ci sono ragazzi, io per esempio ho 28 anni, ci sono ragazzi che ne hanno 20 e sono parecchio bravi e tutti insieme cerchiamo di portare avanti questo progetto. Bellissimo. Che quindi nasce ad Arezzo. Sì. Arezzo città. Sì. E quante squadre d'Arezzo ci sono? Senti, tutte squadre d'Arezzo oppure sì, anche o provincia? Sì, provincia, ma ce ne sono 2-3 massimo. Ecco, a calcio 7 in che giorno si gioca? Dipende, perché dipende la tua disponibilità che dai a Lopez. Ah, noi l'abbiamo data di giovedì o di mercoledì. E quindi voi giocate sempre in questi due sì. giorni? Sì, esatto. Giocate in un palazzetto oppure no, all'esterno? Sì. Anche d'inverno, sì. Di Marcello, perché non farebbe mai questo sport, perché lui ha freddo proprio, non è che poi non fa apposta. Si è riscaldato almeno un momento. Aspetta, ve l'ho fatto io delle domande, aspetta che ve lo dico. Voi, diciamo, quindi avendo un anno non avete palmarès, cioè il primo anno che fate o è il secondo anno? No, questo è il secondo. Il primo anno com'è andato? Il primo anno poteva andare meglio, però non mi lamento dei ragazzi con cui ho giocato. Un grande presidente. Perché davvero ci mettono il cuore. Vedi, questo ci sarebbero tanti i presidenti che dovrebbero imparare da lui. Dinne uno. Okay. Quelle banalità che senti la domenica sera, cioè non è che puoi andare troppo a fondo. Ecco, ma ogni volta che mi confondi perché dicevi che siete in 22. È il sentimento. Ma 22 siete, non siete tanti a parte le battute, no, ma per giocare poi in 7. Siamo in un gruppo, ci sono 22 persone, di cui l'anno scorso c'era un ragazzo che veniva dall'Argentina, è venuto qua per lavorare, è stato con noi 3 o 4 mesi e è stato bravissimo con noi, ha giocato davvero forte. E quindi, ma è come il calcio 5, non ci sono sostituzioni fisse, potete entrare e uscire, sì, e sì. Quindi riuscite a giocare in sì, molti. Sì, diciamo, sì, sì, però non si portano tutti, si porta 10 persone massimo, ah, okay. Più il mister o chi l'accompagna. Il mister che si chiama? Noi lo chiamiamo Pola, però si chiama Michele Markevic. Saluti. Markevic? Sì, sì. La nostra è una squadra un po' internazionale. Sì, ma d'altronde sì. Ormai se vuoi essere... Sì, abbiamo dei Bangladesh... I muri sono caduti. Io sono italo-dominicano. Non guardiamo più a queste cose. Insomma, aspetta, perché Marcello fa la trasmissione a parte. Cioè, lui viene al bar. Cioè, io vengo alla Costa di San Rocco, è un bar. Io guarda, mi sto sempre più spostando verso il balcone. Sì. No, diceva una cosa interessante, probabilmente si è sovrapposta col microfono. Certo. Meno, non, ma non... io dicevo una cosa interessante. No. Ti risulta. Diceva Claudio che appunto ci sono ragazzi di più di molte nazionalità. Sì. Ridillo, va, perché non, sicuramente no, non ci sono sento. Il mister è di nazionalità polacca, poi c'è un ragazzo del Bangladesh, poi ci sono io che sono italo-dominicano, poi l'anno scorso abbiamo avuto questo italo-argentino, quest'anno abbiamo avuto anche uno spagnolo, e insomma, diciamo che noi cerchiamo di coinvolgere un po' tutti. Esatto. Diteci la verità, lo scopo finale è andare a cena. Sì, cioè, sì, cioè, di stare insieme. No, esatto, appunto, io immagino che insomma la cosa più bella sia quella. Anche se io odio perdere, è una cosa che non sopporto. Oh, guarda, vivere fuori il presidente. Uno che ci mette i soldi, ci mette il tempo, mette... poi dopo scusa, risultato... scusate, seconda lezione di radio per Marcello. Se il microfono poggia su un tavolo, sbatti, questo microfono recepisce tutte le botte e non si sente più niente. Ma è solo 4 anni che facciamo questa cosa. Non possiamo pretendere che lui abbia capito la tecnologia quando tu... ragazzi, no, dimmelo te che giochi a calcio a 7. Quando la tecnologia ti si rivolta contro, no, è un segnale incredibile, veramente. Cioè, non ti rimane apposto. Veramente niente. Niente, sei proprio a posto. Ah, oh. C'hai una domanda a te, continuo io. Ora mi hai inibito. Io sono inibito. Ora sarà colpa nostra. Ah, siamo in attesa degli amici. No, perché quando vedo. Scusate, mi devo alzare allora. Dicevo che siamo in attesa degli amici del Fantachiana. Allora, iniziamo da Giacomo Romani che fa un saluto a Marcellone. Stasera è la serata di Marcello. Aspetta, ancora di più. Mamma sai mia. Quanto mi è costato? Allora, Caterina Lucani e Ghezzi, ciao. Io vi lovo sempre Caterina, poi Roberto Mencarelli, Augusto, Giacomo Romani, un saluto a Marcellone e ancora Giacomo Romani e anche a Claudione, grande Ciccio, la musica è il top, grande Simo, sbagliato chat Caterina. Simone Palmetari dice le stinchiere probabilmente per Claudio perché dai calci lo sto. No, ma Giacomo Romani mi sa che lo conosco, ha giocato sì, con me. È di Torrita. Sì, di Torrita di Siena, allora lo conosco. Facciamo un po'. Un saluto. Ma io l'avevo invitato per questa sera, non sapendo assolutamente che riconoscevate, tra l'altro. Lorenzo Baini, Massimo Viribicchi ancora, Cristiano Gasperini, grandissimo calciatore che quante gambe abbiamo rotto. Io no, lui sì, ci mancherebbe altro. A quanto siamo, Simo? Non lo sappiamo. Quanto? Non lo so. Ah. No, ma ancora la serata festa. È giovane. Mi alzi anche questo microfono che voglio salutare un attimo i nostri ospiti, di cui io non so assolutamente niente, ma buonasera Augusto, non è più un ospite, ma fa parte dell'arredamento. È proprio così. Perfetto. Ah, sono arrivato da bere. Facciamo un po' proprio quello che ci... Vieni Marcello, servi tutti. Renditi utile. Poi, aspetta, sì, la fai te l'intervista. Nome? Andrea. Andrea Lucani. Sì. Alessandro Ghezzi. La tua faccia non mi è nuova. Sì, sono venuto alla trasmissione l'anno scorso. La brigata di recidivo. Ragazzi, io sapete che esco di qui e non mi ricordo di esserci stato, quindi voglio dire, figuriamoci se posso ripetere. Però già il fatto che una faccia non era nuova, quindi un grandissimo attore. Non solo, grandissimo, non lo dico io, vediamo. Non lo dicono gli altri. Enzo, senza, sì. Tra l'altro, senza svelare niente perché ancora è prematuro, ma stanno con la sua compagnia stanno preparando qualcosa di nuovo e abbiamo già un'opzione per un'intervista. Mi sembra giusto. A primavera. Giustissimo. Quindi voi siete di Arezzo? Casino Fiorentino, per l'esattezza. Chiedo scusa. Sia Casino Fiorentino che Arezzo, così almeno no, perché se no sembra voi offende uno o l'altro. Chiedo scusa a tutti. Allora, la cosa bella di questi due ragazzi è che secondo me loro stanno facendo qualcosa di nuovo in palestra. Perché esistono dei video che ora diciamo non si possono pubblicare, però in cui hanno fatto vedere quello che fanno in palestra e nelle cose di tutti i giorni, tipo tirare giù un avvolgibile, aprire. Ecco, loro hanno questo atteggiamento e fanno i muscoli. Cioè, guarda che fisico. Guarda che palestra fisico. Si chiama TRX, lui lo chiama avvolgibile. La stessa esperienza delle palestre come del calcio. Ho capito. È come se tirassero su e giù un avvolgibile. Quindi tutti sportivi stasera? Tranne io. Tranne te, benissimo. Simo, saremo a una decina di minuti, boh, chi lo sa. Continua a chiedere scusa agli ospiti, perché ne stiamo parlando. Ma tanto è per capire. Aspetta, fermi tutti. Allora, un saluto. No, dunque, ancora abbiamo Sandro, grande Sandro, saluti, Sandro Donati. Giacomo Romani direi mi conosci, sì, ti dice a te. Chiara Bomber. Bidini, un saluto da Ilaria e Chiara. Ciao Ilaria e Chiara. Cristiano Casperini dice: mi hanno sempre picchiato. Sappiamo tutti, sappiamo tutti che è così, Cristiano. Allora io direi di provare ad andare con un altro brano, Simone. Che ne pensi? Basta. Marcello? Ma se proprio dobbiamo. E poi noi intanto continuiamo con la diretta video e poi torniamo anche in voce. It was quite a shock to me. You seem as happy as can be. Always. And even though it is too late, keep your head up and you'll wait. Always. So you stay always. They pull you up to knock you down, collecting thorns to cast your crown. Fodietor con Dedicated. Chi lo che non è dedicato, ma è Dedicated. Oh, altri ospiti arrivano. No, come silenzio. Andrea è arrivato, un ospite. È la prima volta, la seconda che vieni? La prima volta. Aspetta, Ma c'è anche... No. Possiamo fare un'intervista perché... Ma non eri solo però. No, però si vergogna, fai... Se si vergogna usciamo tutti fuori insieme a lei. Figurati noi, siamo in diretta, ti hanno detto che ti vergogni, abbiamo deciso di venire a fare la trasmissione fuori o vieni dentro te, scegli te. Grazie, perfetto. Vedi, siamo, perché questo è così, in divenire, in divenire. Sì, è ricatto, perché sennò tanto non verrebbe. Allora, Shyamalan, stasera settima puntata. Ad altronde siamo un po' frufru perché siamo reduci da meglio che essere free dalla settimana a Roma, ma tanto io lo sapevo, non le dico, ma sapendo già. Allora, siamo reduci da una settimana a Roma dove abbiamo fatto di ogni, quindi ancora abbiamo bisogno di riassestarci un attimo. Però, volendo rimanere seri per quei 20 secondi a intervento, visto lo sport che fanno, non sarebbe stato meglio il Calcio Neros? Il nome? Come nome? Già, aspetta, scusami. No, viene dall'Atletico di Madrid. Infatti, aspetta. Stiamo parlando con gli amici del Calcio Neros, che è una squadra di calcio a 7 di Arezzo, dove ci sono delle eccellenze. C'è un portiere bravissimo che para rigori come se piovesse. C'è un bomber che scatta fascio di gol. Ma non quest'anno. Quest'anno no. Ma perché anche c'è un infortunio, insomma. Sono 4 partite. Ragazzi, ancora è lungo. Anche Belotti, le prime 3 partite, non ha fatto niente. Voglio dire. Appena si è svincolato. L'ha fatto 3 gol. No, ha sbattuto un rigore, insomma. Sì. No, 2 rigori. Ma queste sono cose. Ma non è dettaglio. Perché Calcio Neros? Perché l'anno scorso era del mio fratello la squadra. E me la passate in famiglia, come per sì, si chiamava Atletico non molto. Atletico non molto? Sì. Dopodiché a me mi è venuta l'idea che, visto che l'Atletico di Madrid stava facendo bene quell'anno e hanno il soprannome, i loro tifosi, Calcio Neros, mi è presa la voglia di chiamarla così. Giusto. Pensa, io giocavo in una squadra di calcio 5, si chiamava Sugo de Nana, tutto attaccato, per cui... Li conoscevi? Una nostra, no, però mi piace un calcio alla crisi. FC Sugo di Nana, dove FC stava per forchette e coltello, tra l'altro. Tutto vero, quindi voglio dire, capisco benissimo. Serve per riassumere anche lo spirito. Quello era sicuramente lo spirito. E anche il menù un po'. Sì, certo, tutti sanno, tutti i giovedì. Qualche piatto preferito. Esatto, ma non parliamo di noi. Vuoi fare una domanda? No. L'inutilità assoluta, l'inutilità. Oh, ma voi per creare la squadra, comunque dovevi sapere qualcuno che faceva il che sapeva fare il portiere. Sì, lui lo conosco da quando siamo piccini. Ah, ok. Nel senso, sarà più di 15 anni. Sì, è riuscito. A 28, sì, a 10 anni. Quando ho cominciato ad avere 10 anni l'ho conosciuto. Perché voi avete una carriera alle spalle, almeno giovanile, nei sì, squadre. Sì, si conosce tutti ad Arezzo. Chi giocava, lui giocava nel San Domenico, sì, chi nella Tuscar, io giocavo nel Camp Milan insieme a Romani, e ci faceva da mister Pasqualini. Mauro Pasqualini di Foiano, che è stato anche ospite nella nostra trasmissione, una delle glorie del calcio foianese, anche se adottato. Grande persona. Assolutamente. Pelé, valore. Pelé gli vuole dare la maglia dopo un amichevole, perché l'aveva fatto diventare matto. Due Mauro tunnel. A Pelé, non viceversa. Due tunnel. Me lo raccontava sempre. Ci credo, io l'avrei esagerata, figurati, faceva bene a raccontarla. Il colore delle vostre maglie non abbiamo detto? Sono quelle dell'anno scorso dell'Atletico di Madrid, abbiamo fatto proprio il completo, sia da trasferta che da casa. Originali. Tu e Marcello non hai idea? Bianco-rosso. Pensa che uno è bianco-rosso, quello normale, quello che si mette... A righe. Sì, è rosso-blu. O se no c'è quell'altro che è tutto blu scuro. Ti è chiaro tutto, ma sono colori, sono colori primari, non è vero. Poi come vi ho detto prima abbiamo lo sponsor. Esatto, di questo dobbiamo parlare. Sì, che è lo Stil Novo, è un bar d'Arezzo, che è importantissimo. Lui ci dà una grossa mano. Potremmo fare anche un gemellaio. In tutto per facciamo tutto. Una squadra anche noi, un calcio a due, un calcio a Simone. Un calcio a Simone. Che momenti. Aspetta che vedo altri messaggi che la nostra cameraman non mi segnala. Viva, allora dicono viva la Fantachiana Record, Caterina applaude, Simone Farretani, Mattani portiere della SS Tergirunotto, questa è una storia un po' lunga che poi vi spiegherò. Sì. Marco Del Santo lo salutiamo. Matteo dice contemporaneamente solo con la Fantachiana, non so cosa, però a 20, ah ok, siamo ancora a 8, però ragazzi, Roby Scagli, lo salutiamo, che ha preso parte adesso alla diretta. Quindi il campionato è iniziato da 4 settimane, un mese? Sì, ma questo non è proprio un campionato, è un mini torneo che ti permette di andare, sì, è un girone che ti permette di andare o in Champions League o in Europa League. Cioè, questo voglio dire... No, tra virgolette. Sì, tra virgolette. Cioè, si chiama comunque Champions League. Sì, esatto. E chi vince la Champions League va a Riccione, no? Sì, ci sono i playoff. Perché ci sono due gironi, quelli della Champions League dopo giocano contro quelli dell'Europa League. Le migliori 4 contro le migliori 4 dei due gironi. Quindi off... a maggio. Praticamente. Più o meno sì. Almeno sapete come passare esatto. La stagione. Attenzione. No, rispetto, capisco. No, scusate, è entrato un altro ospite. Sia mai che io venga a fare un'intervista proprio adesso, per dire. Solo nome e cognome, guarda. Non ce la fa. Guarda, è più forte di me. È più forte di me. Ah, no. Ciao. Facciamo finta di non conoscerci. Come ti chiami? Valentina. Stai con lui? Sì. Oh. Ci ha provato, via, ora ritorna al tavolo. Stasera è andata così. È andata così. Accontentati di Andrea e Claudio, su posto. Allora, io non sono disponibile, eh. No? No, 12 anni che sto con una ragazza, per cui... Vabbè, basta. Basta, ora basta. Ora basta. Aspetta, 12 anni? Sì. Wow. Io volevo chiedere ad Andrea, che abbiamo detto è un top... Parla. Sì, non riesce a fare due cose insieme. No, sto respirando e muovendo la bocca, perché sono già a ram completa praticamente. Allora, dicevo, Andrea, te sei il portiere... Sì. Come fai a, diciamo, a parare lì? Non è facile, devi guardare in dove la palla. Ecco, ma la devi guardare mentre entra. Siamo in porta, a 15 con la tanti, devi... Qualcuno stacchi per sapere. O devi anticipare? Dipende, tipo nel rigore io gioco d'anticipo. Come nei cartoni animati guardi negli occhi il rigorista e gli incuti timore? No. Che gli dici? Che gli trasmetti? Niente, cerchi di capire in dove tira. E spesso accade? No, quasi diciamo l'80% delle volte. Come si chiama? Molto spesso. Lo posso dire? Sì. Diciamo, per imparare però questa tattica. Guarda che ci vuole di sviluppare. Ma in allenamento gli tiri i rigori? No, ma noi non si fanno. Noi non si fanno gli allenamenti. Ah, ecco, questo è importantissimo. Cioè, fermi. Voi giocate una volta alla settimana e vi trovate quella sera lì. Sì. Fantastico. Ecco, scusa, a questo punto una domanda mi sorge spontanea. Attenzione. Con gli infortuni come state? Perché siamo 22 apposta. Vedi che per tutto c'è un perché. 22 in rosa e disponibili 8, 9 appunto, dicevamo, 10 al massimo. Sì, perché... Cioè, quindi non vi allenate mai? No, perché lui gioca nella chiassa e altri ragazzi giocano in altri avete anche altre squadre. È più un ritrovo questo, diciamo. Invece riusciamo per stare insieme, provare a divertirci facendo qualcosa di buono creato da noi essenzialmente. Ecco, dove giocate voi? In quale allora, campo? Il campo di casa è il Vittoria Calcio 7 di Badi Alpino. E mentre solitamente in trasferta, ora ultimamente ci mandano allo Junior Camp, però è variabile anche questo da... Quindi voi tutti o i mercoledì o i giovedì, esatto. E poi dipende. A Badi Alpino, se giochiamo in casa sono questi due giorni, se giochiamo fuori casa decidono gli avversari. Esatto. Perché ogni squadra dà la sua disponibilità giornaliera. E se una squadra ha questa disponibilità di domenica e te per esempio giochi la domenica? No, la domenica. C'è da domenica. Ma mica siamo domenica. Allora, se fa per divertire. Mica se fa, voglio dire, quindi è da lunedì al venerdì. Quindi stasera non giocate, questo si è capito male. Perché aspetta, fammi vedere che volevo sapere quanto tempo era passato. 10 minuti. Roby Scali abbiamo salutato. 10 minuti? Allora dobbiamo andare con un'altra canzone. Dobbiamo andare con un altro brano. Però togliamo tempo alle domande intelligenti che devi fare te. Lo so, purtroppo è un sacrificio. Allora, anni 80 ora. È bella la pausa radiofonica. Allora, 4 secondi di silenzio. E vai con la musica. Thank you. siamo insieme in onda, per chi ci ascolta in registrata solo in audio, sembra una trasmissione anche seria in alcuni momenti, ma no, nemmeno in quel caso lì. Però c'è della musica che fa sembrare seria la trasmissione. Per chi ci sta guardando in video si rende conto veramente del disastro, ma non è ancora niente. Mancano ancora qualche minuto, manca ancora qualche minuto alla fine. Shabalon, il canale Piazza Alta, dovete condividere assolutamente, dite agli amici di condividere, perché Marci, che cosa c'è? Tanto amore. Tanto amore. Chi condivide, tanto amore. E tanto stupore. Bravo. Allora, abbiamo provato a parlare fino adesso con gli amici della Colchoneros, dell'FC Colchoneros, che è una squadra di calcio a 7, e a noi solo questa cosa ci ha affascinato da morire, perché 7 è il numero perfetto, si sa, insomma, da tempo. Sì. E ne stiamo parlando col presidente, nonché grande bomber, stanno un po' infortunato, ma insomma, le solite cose. Sì, ma Claudio, tutti così, Berni, e con il capitano che para un rigore ogni due, ma forse capito, anche di più. Io ho capito anche perché, perché sul suo profilo Facebook c'è una fotografia che lo riprende di spalle. C'ha l'armatura di quelli che giocano, dei giocatori di football americano. Allora, quindi copre mezza porta solo in quel modo. Certo. Pensa che para un rigore e mezzo di media, domenica prossima dovrebbe prendere mezzo gol. Teoricamente in mezzo gol. Il gol contestato vale mezzo. Esatto. Ma questa è la trasmissione in diretta. Veramente ci hanno fatto un grande regalo, sono qui con noi due grandi artisti. Andrea non faremo in tempo a capire che cosa è. Ad esprimere. Però c'è un nostro amico Alessandro che fa parte della Brigata del 100, che è stato già nostro ospite e che, diciamo, noi ci vantiamo di essere dei suoi fan, suoi ammiratori. Quale onore, veramente. No, l'odore è tutto. Senti, abbiamo accennato prima che state preparando qualcosa di nuovo, vero? Sì, stiamo preparando qualcosa di nuovo. Questa volta prepareremo un giallo. Quindi va molto con il marrone. Con il marrone è un abbinamento perfetto. Un giallo, vi anticipo il titolo: sì. I segreti dei Barlow di Hamilton. Vi aspettiamo a partire dalla prossima primavera. Ecco, ma i bar di dove? applauso perché questa nemmeno nei peggio bar di Caracas era una battuta. No, nemmeno nei peggio Barlow di Caracas. Scusa, starai già studiando, no, la parte? Sì, stiamo quindi preparando un pezzettino, ce lo puoi fare anche si accomodi un cameo. Si accomodi, signora, l'aspetto nel salotto. Beh, guarda, sì. Io già vedo il salotto. Ma si paga per venire a vedere le prove, perché io già ora. Allora, no. Sono a pagamento, ma non sono aperte al pubblico, quindi mi dispiace. Questa è un po'... Potremmo fare un'eccezione per voi due, proprio una cosa. Guarda, Alessandro, per chi vi vuole bene, questo è un po' un affronto. Parla con il regista, perché credo che ne valga la pena. Fabio, se ci stai guardando, prendi una decisione e poi facci sapere, anche col messaggio. Allora, complimenti, perché una recitazione così, io mi sono visto anche il salotto, per dire. No, aspetta, io sono rimasto al bar, ti dico. Ecco, dobbiamo salutare Francesca Frullini e ciao, Paolo Parigi, che dice: grande Ghezzi, fai pubblicità. Ciao Paolo. E poi mi dicono qualcosa anche a me, ma io faccio finta di non io se c'è il tempo... Potrei far esibire anche siamo a 16, Andrea. 17 ragazzi, forza, datemi telefono, a 20 Marcello si spoglia, forza, 19, dai ragazzi, è finito il tempo, 17. È finito il tempo, concentriamoci, è finito il tempo, 19 e ora siamo tornati a 15, non sprecare gigabyte, dai, gigabyte lo dice lui e Marconi, hai mica un gigabyte? Quanti gigabyte? Non so. È vero. Ma ritorniamo a parlare. Grazie Alessandro. Ma in kilowatt questo apparecchio? Scusami Enzo. Ti ringrazio Alessandro, sei stato come al solito prezioso e professionale fino in fondo. E allora che prego, cosa facciamo? Mi sono informato. Chiaramente. Applausi. Allora, applausi. Applausi. Oh. Dopo gli applausi, una rotonda sul mare. Ah, dunque, sono le 22 51. Ed è freddissimo, non ci si può più spogliare. No, peccato, siamo andati molto vicini, ragazzi. Abbiamo perso un'occasione grande. Un saluto anche a Maria Carmela che sta guardando anche lei la sessione. 20 non è così tanto ed è niente rispetto a quello che potremmo vedere. Ecco, non ve ne pentite. Direi però... Non ve ne pentirete. Sai, lo spritz non sa avere anche degli effetti su di me. Musica? Colchoneros. Colchoneros si esibiranno. Bingo! Colchoneros. Colchoneros. Colchoneros. Non lo so, vuoi mandare... Facciamo un altro brano perché secondo me è il meglio da venire. E poi concludiamo... veramente con i nostri ospiti che hanno fatto tanta strada da Arezzo, ci faranno per vedere con un noi. Po' di ripeture, le ripeture. Scatti e non fate allenamenti, ma scusate, con questo freddo almeno un po' di riscaldamento come si fa il riscaldamento? Sì, ma non giocare, quello a giocare 5 minuti, quello con le moppine non vale, non conta. Marcello era curioso. Salutiamo gli amici che ci ascoltano in podcast. Siccome una delle più grosse, diciamo, creazioni è proprio il nome della squadra. Ma fai delle pause più lunghe, perché sennò la gente pensa che non abbia, che funziona la radio. Nel vostro caso ci avete raccontato come è nato il nome, ma altre squadre che fanno parte dello stesso... È la domanda. Ce ne volete... Altri nominare? Nomi particolari? Ce n'è una che si chiama Un calcio alla crisi. Beh, è di buon auspicio. Può aiutare. Poi era zero, scusa, ha sempre perso. No, invece ci abbiamo perso tutte. Noi. Vedete, l'ha vinte tutte, prima in classifica. Sì. È dato un calcio alla crisi. Un calcio alla crisi. Poi ci sono una squadra di ragazzi albanesi composta dalla maggior parte di ragazzi albanesi che si chiama Skander Breu, dedicata, non so, è come per noi Juventus, parole povere. Sì. Ah, una squadra molto forte. No, ma dicevo il nome, è come per noi Garibaldi. Ah, ok. La stessa cosa per un eroe nazionale albanese. Sì, sì. Ok. Non so, non è d'accordo il portiere, però ora siamo 40 minuti. Piazza Alta che diventa virale. Piazza Alta diventa virale. Ecco, sì, potete attaccare sui vostri telefonini l'adesivo. Sì, infatti, te lo volevo fregare un paio, ma anche 5-6. Quelli che non ho messo per tutta la rete, mi posso mettere io dopo. Se vuoi, Marcello li attacca, non lo mette nei bagni dell'autogrill un po'. Mi ci lascia accanto al numero di cellulare che lascia. Per cui lui va bene, in certi ambienti viene chiamato Piazzaltino. Insomma, c'è il cuore. C'è il cuore, non a caso. Guarda che il sentimento è tutto ciò che vuoi. Abbiamo finito in bellezza, direi, parlando degli autogrill dove ti ritrovi settimanalmente, diciamo, non tutti i giorni. Vabbè, mercoledì o giovedì, quando le partite. Tra l'altro, ma di Alpino, per cui c'è la Autogrill vicino. E qui sei a posto. Perché? Oh, vogliamo dire qualcos'altro sulla grandissima e gloriosa squadra, no? Che vincerà sicuramente. Io quasi adesso lancerei questa proposta, perché ormai stasera ci siamo conosciuti, abbiamo capito che è una cosa seria il calcio in generale, sì. Però il calcio a 7 soprattutto, sì, e sì. Siccome siete anche all'inizio della stagione, sì. Magari nel prosieguo si potrebbe anche pensare a delle collaborazioni, a delle incursioni. Pensa, io già mi immagino la telecronaca di Marcello alle vostre partite. È possibile? Ecco coso che è sparita la palla, sono andati via, c'è due tempi. Mani, rigore, poi, ecco, su questo sarebbe così. Io però potrebbe essere arricchente, nel senso che no, ma lui sta sicuro che te interessi anche in campo per fare delle domande mentre gioca. Facciamo così, sto nell'ultimo anello per intanto sicurezza. Simone è il nostro contatto con il contabile, perché se no, il contabile con, con gli amici del Colcio Nero noi ci ripromettiamo un mercoledì o un giovedì di venire a fare la diretta dal campo. E anche chi ci segue, chi ci sta vedendo, ci dica se è una cosa che può essere gradita. Mi piace Marcello perché parte convinto, no? Siccome lo vedo lo guardi ed ecco perché no, incrocio il tuo sguardo vacuo perché non si capisce appunto, ma aspetta che finisca di nucleare il concetto, no? Ed ora io direi di finire con una domanda che da qui in poi dovrebbe essere un diritto ai nostri ospiti. Tornerete più? Messa così è quasi una minaccia. No, non credo, ma ora sai, magari sono atleticamente. Vabbè, non sport. Tornerete voi, ma verremo noi a trovare. Va bene, quindi guardatevi le spalle. Io direi di ringraziare tutti voi che avete avuto il coraggio di seguirci anche per solo un minuto, e anche tutti noi perché non siamo andati oltre ai limiti concessi. Ringraziamo addirittura chi è venuto qui, ma avrà in cambio un fantastico Stickers. Una calcomania, no? Calcomania. Ora poi e anche un biglietto da visita, che questo scusa Valeria, puoi inquadrare? Questo può essere molto utile, io ve lo dico, se si chiude la macchina con le chiavi dentro lui non si è mai fatto una canna è evidente, ma nemmeno io ci mancherebbe altro, figurati, mezzo te. Spritz siamo già fuori dalla vendita. Grazie agli amici Claudio Berni, presidente della FC Colchoneros, anche a Jacopo che è stato, non è venuto piacere. Ma era il vicepresidente, sì. Quindi anche lui una cosa importante, ma ci sarà occasione. Al capitano Andrea Mattiani, uno dei più grandi portieri di calcio a 7 che la Colchoneros abbia mai avuto, sicuramente per quest'anno anche l'anno scorso grazie a tutti voi, non so chi ve l'ha fatto fare ma ormai l'avete fatto, ormai si è fatta. Devo fare la sigla, aspetta che prendo i potenti mezzi, mi cambio. cambiato. Va, sì, no, va ora in onda, no. Avete visto e ascoltato Shabalon, un programma di Piazzalta di e con Enzo e Marcello. Alla conduzione tecnica Simone. Une. Alle riprese video Valeria. Aerea. A venerdì prossimo. Ossimo. E ciao. Wow. Basta. Wow.